GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Juventus in grigio per chiudere la fase a gironi di Champions League. 0-0 a Torino con il Bate Borisov. Ma quanto basta alla squadra di Ranieri per avere la certezza del primo posto nel gruppo H davanti al Real Madrid? Per la Fiorentina la qualificazione era già sfumata, ma un gol di Gilardino regala ai viola il primo successo in Champions sul campo della Steaua Bucarest e con esso la qualificazione alla Coppa UEFA. Manchester United, Bayern e Porto vincono i rispettivi gironi. Un palo di Marchionne e un rigore sbagliato da Giovinco è tutto ciò che la Juventus è riuscita a produrre con il Bate Borisov. C'è il Milan dietro l'angolo, ma la partita dei bianconeri non è stata esaltante. La difesa di Nicola Legrottaglie. Visto la posta in palio, a noi interessava di più il punto. Ma nello stesso tempo abbiamo cercato di vincerla, abbiamo avuto un rigore sbagliato, altre due o tre palle a un palo, due o tre palle limpide per far gol. Abbiamo cercato di non rischiare, di rischiare il meno possibile, perché queste partite, quando non sono grandissime partite sulla carta, a livello psicologico bisogna stare molto attenti, e questo fa tanto. Prova di maturità, perché ci serviva un punto e l'abbiamo portato a casa. Alla Fiorentina resta la gioia per i primi tre punti in questa edizione di Champions. Quinto gol di Alberto Gilardino e ora viola che traslocano in Coppa UEFA. Prandelli è contento. Qualificazione, ci tenevamo molto e quindi i ragazzi hanno, soprattutto nel secondo tempo, disputato una prestazione importante. Adesso stiamo avendo un po' più di fortuna rispetto a qualche settimana fa. Io sono sempre più convinto che questa squadra ha grandi margini di miglioramento, perché c'è convinzione, perché c'è la voglia di crescere, c'è la voglia di essere squadra e nelle ultime partite siamo stati squadra. Lasciamo il calcio per il basket, si allontana per Milano la speranza delle top 16 di Eurolega. Armani sconfitta ieri a Istanbul nella settima giornata, 74-67 sul campo dell'Efes Pilsen. Serata storta per Hawkins e Vitali, solo tre punti a testa. Non bastano i 16 di Bulleri. Siena invece non fa sconti allo Zalgiris Kaunas, battuto 193 con 21 punti di Domerkant e 19 di Lavrinovic. Per la Montepaschi è la sesta vittoria. E sempre per il basket, ieri si è giocato anche un recupero di campionato con la Scavolini Pesaro che ha vinto 83-63 a Caserta. A Monte Carlo è stato trovato invece un punto d'incontro tra Federazione Internazionale e Associazione dei Team sulle misure per tagliare i costi della Formula 1. Le novità saranno annunciate ufficialmente domani, ma sembra sfumato il motore unico uguale per tutti i team. Secondo Luca di Montezemolo c'è stata grande unità di intenti. Infine nuoto, scattano oggi a Fiume in Croazia i campionati europei in vasca corta. Tra gli azzurri più attesi, naturalmente Filippo Magnini, bicampione mondiale dei 100 stile libero che torna in acqua dopo la delusione olimpica e l'esperienza in un reality show televisivo. Claudio Rossetto, l'allenatore di Magnini, al microfono di Dario Ricci. Ma non troveremo sicuramente un Filippo preparatissimo dal punto di vista atletico, ma sicuramente un Filippo molto rigenerato dal punto di vista psicologico. Dopo la delusione appunto delle Olimpiadi, come carico e ha voglia di fare, chiaramente qui non potrà fare quello che potrà, insomma, però sicuramente carico per il futuro e ha voglia di rimpegnarsi nel nuoto a 360 gradi, che era la cosa che più mi premeva. Ed è tutto per questa edizione di GR Sport, di nuovo buona giornata.